You're listening to Rock FM.

can see those spider planes across the mud huts so pure and sleek, through the alleys of quiet city street. You take the staircase to the first floor, you turn the key and slowly unlock the door. As the man breathes into his saxophone, and through the walls you hear the city groan. Outside it's America, outside it's America. Utilizzata anche dai POD, questa è la versione originale di Bullet in the Blue Sky, la formazione naturalmente è quella di U2. Yeah. la formazione è quella dei Tesla, una delle tante band che si esibiranno anche in Europa durante il periodo estivo per i vari festival, a cominciare dal primi giorni di giugno, festival, lo Sweden Rock Festival, uno dei più importanti e decisamente uno dei più belli. Andiamo un po' in quel di Seattle con Paul Westenberg e Pearl Jam. You come along, it doesn't really matter. I go it alone, doesn't even hurt. All my life, waiting for somebody. Oh yeah. All my life, waiting on somebody. Yeah. I'm waiting for the day, waiting for the day that you come. Abbiamo raggiunto le 11:31 primi e questa giornata, ormai siamo un po' nell'ultimo mese, a volte cambiano i giorni, i collegamenti, ma non mancano questa settimana lo spazio con Videogame insieme a Fabio direttamente dall'Halifax. Ciao Fabio, buona giornata. Oh, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, ci eravamo sentiti settimana scorsa dove dicevi, beh, le cose grosse ormai sono uscite, invece ecco qua spuntare un titolone nuovo. Sì, abbiamo oggi una licenza cinematografica che è il film che adesso nelle sale, Iron Man. Sta andando anche molto bene. Da quello che io non ancora l'ho visto, ma da quello che mi dicono deve essere carino. Questo a livello di film cinematografico. Il gioco chiaramente, esatto, Rispecchia la trama del film, ci sono gli stessi attori renderizzati, quindi virtuali con le stesse voci originali, chiaramente c'è un sottotitolo italiano per comprendere meglio il tutto. Ah, quindi è in lingua inglese con appunto sottotitoli. I sottotitoli, ok. Si tratta di un'avventura, cioè un personaggio. Sì, un action, esatto. Un action puro. Chiaramente tutti i poteri di Iron Man sono stati riportati nel gioco, si potrà volare, sparare, fare un po' di tutto. Gioco anche previsto per online oppure in single? Online no, quindi un gioco singolo. Comunque chiaramente disponibile anche per PlayStation 3. Perché noi oggi lo regaliamo per Xbox 360. Quindi da questo istante nome, cognome, città da dove inviate il vostro SMS al 335-100-7777. Fabio, io ti ringrazio come sempre, gentilissimo. Ci sentiamo. Esatto, la prossima settimana. E grazie ancora una volta e buon lavoro a te. Ciao Fabio, ciao. Grazie quindi a Fabio, veramente, avete sentito Iron Man per Xbox 360, sarà il videogame che vi omaggeremo questa settimana. Noi torniamo a livello invece musicale con, visto l'orario, un altro collegamento, quello con il nostro Chuck Bird, i suoi aneddoti legati al mondo del rock, Backstage Pass.